Nessun penserà male, parlar d'ecce con voi d'una far d'importanza. Io vamo! Grazie! Vamo da padre e nulla più. Son certa! Sentite, se mai vi manca nulla, io vi posso servire. Signor, ma voi trepate! Lilla, fratellina, udiam come vi tratta. E infatti qui, cangia precisco. Figlia, siete fortunatissima. A me pare il contrario. Avete la fortuna di piacere all'infante. Peggio per me. Perché? Perché io non l'amo. Dunque voi, sì difficile, caralina la valli. Io voglio segnare come la figlia, ma se il padre... il padrone del sesto, il solito il sovrano. Ma io vado assai più, mia bella pace. È giusto questo più, che a me non piace. Barbara, siete insensibile alla stima, all'amore, ai prieghi miei. No, Barbara, sarei, se sensibile io fossi. Perché? Perché morrio il mio caro Rubino di gelosia. Proviamo coi danari. Lilla mia, questa borsa di doppi è tutta vostra. Se voi dite d'amarmi, no. Io di doppio, signor, non so che farmi. Vi darò questo anello, questo bello orologio. Proteggerò Rubino. Farò che andiate per le vie di Madrid, ricca di gemme, con un bel equipaggio. Procurerò che abbiate ricchezze, gravi titoli ed onori. Tutto ciò lo troviamo nei nostri amori. Viene questo lamento. canto e cerco ne so quel che saprò ne so quel che sarà ne so quel che sarà ne so quel che saprò ne so quel che saprò. Il perfido rapirlo Pietà per zio dolor. Io la mia pena Vin, Stancarti, vita mia, di adoperarti, donna sollecitata e mezzo guadagnata. Parla, prega, prometti, incoraggisci, istruisci, lusinga! Corrado amare. Sia la compia genza mia nata alla vita, li rechi il pugno. generosità. Voi dietelo, figlio, ed insieme con essi passate pur la notte in festa e in fiato. La virtù onorata e la liroco. Thank you. Seguì